Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti. Grande difficoltà che ricordo il primo periodo della mia esistenza. Tutti gli eventi di quel periodo mi appaiono confusi e indistinti. C'era in me una strana molteplicità di sensazioni e io vedevo, sentivo, udivo e odoravo contemporaneamente. Occorse davvero molto tempo perché imparassi a distinguere i vari sensi. Ricordo che gradualmente una luce più forte mi colpì i nervi, obbligandomi a chiudere gli occhi. Mi avvolse allora l'oscurità e mi spaventai, ma subito riaprii gli occhi, come ora capisco, e la luce tornò a inondarli. Camminai e, credo, scesi delle scale, ma a quel punto un grande mutamento si manifestò nelle mie sensazioni. Prima mi circondavano corpi oscuri e opachi, impenetrabili al tatto e alla vista. Ora, invece, mi accorgevo che potevo muovermi liberamente, senza ostacoli che non potessi superare o aggirare. La luce mi si fece sempre più molesta, il caldo opprimente, e cercai un luogo dove potessi trovare ombra. Raggiunsi la foresta vicino a Ingolstadt e mi sdraiai sulla riva di un ruscello, a riposare, fino a quando non cominciai ad avvertire i tormenti della fame e della sete. Ciò mi scosse dal torpore, e mangiai alcune bacche che pendevano dagli alberi o crescevano fra l'erba. Placai la sete al ruscello, poi mi sdraiai e fui vinto dal sonno. Era buio. Quando mi svegliai, avevo anche freddo e, per istinto, provavo un certo timore a trovarmi così solo. Prima di lasciare la tua casa, ho una sensazione di freddo. Avevo indossato qualche abito, insufficiente però a ripararmi dall'umido della notte. Ero un povero disgraziato, infelice e derelitto. Non conoscevo né potevo capire niente, ma sentendo il dolore assalirmi, mi misi a sedere e piansi. Poco dopo, una tenue luce si diffuse nel cielo e mi diede un senso di conforto. Mi alzai e vidi una forma radiosa salire fra gli alberi. La osservai con meraviglia. Si muoveva lentamente, ma illuminava il mio cammino, e mi misi di nuovo in cerca di bacche. Avevo ancora freddo quando, ai piedi di un albero, trovai un grande mantello con cui mi avvolsi, poi mi sedetti per terra. Non avevo idee chiare in mente Era tutto confuso, percepivo la luce e il buio, la fame e la sete. Innumerevoli suoni mi frastornavano e vari odori mi avvolgevano. Il solo oggetto che riuscivo a distinguere era la luna, scintillante, e su di essa fissai gli occhi con piacere. Ci fu un lungo alternarsi di giorni e di notti, e l'astro notturno si era molto rimpicciolito quando incominciai a distinguere le mie sensazioni, l'una dall'altra. A poco vidi chiaramente il limpido ruscello al quale mi dissetavo e gli alberi che mi facevano ombra. Fui molto lieto quando mi accorsi che i suoni piacevoli che spesso mi risuonavano all'orecchio provenivano da quei piccoli animali alati che a volte celavano per un attimo la luce ai miei occhi. Presi anche a osservare con maggiore attenzione gli oggetti che mi circondavano e a percepire i confini della radiosa volta che mi faceva da baldacchino. Talora cercavo di imitare i dolci canti degli uccelli, ma invano. Qualche volta provavo il desiderio di esprimere le mie sensazioni a modo mio, ma i suoni rozzi e inarticolati che emettevo mi spaventavano tanto da ridurmi di nuovo al silenzio. La luna scomparve dal cielo e quando tornò a mostrarsi in forma più piccola, io ero ancora nella foresta. Le mie sensazioni si erano fatte a poco, distinte, e ogni giorno la mia mente afferrava concetti nuovi. I miei occhi si abituarono alla luce e furono presto in grado di percepire le cose nella loro vera forma. Distinguevo l'insetto dall'erba e per gradi un'erba dall'altra. Notai che il passero emetteva solo poche note aspre, mentre quelle del merlo e della tortora erano dolci e soavi. Un giorno che ero oppresso dal freddo, trovai un fuoco lasciato acceso da alcuni vagabondi e mi sentii invadere di gioia al calore che da esso proveniva. Nel mio giubilo infilai la mano fra le ceneri ardenti, ma subito la ritrassi con un grido di dolore. Strano, pensai, che la stessa causa potesse provocare effetti così opposti. Esaminai il materiale da cui il fuoco si sprigionava e con grande gioia vidi che si trattava di legno. Subito raccolsi alcuni rami, ma erano umidi e non bruciavano. Questo mi scoraggiò e sedetti a osservare l'opera delle fiamme. Il legno umido esposto al calore si asciugò e prese fuoco. Cominciai a riflettere. Toccando i vari rami, ne scoprii la causa e mi diedi da fare a raccogliere una grande quantità di legna per farla asciugare e avere una buona provvista di combustibile. Quando venne la notte, e con essa il sonno, fui preso dal timore che il fuoco potesse spegnersi. Lo coprii accuratamente di legna e foglie secche e vi misi sopra dei rami umidi, quindi distesi il mantello, mi sdraiai per terra e mi addormentai. Era mattina quando mi svegliai, e il mio primo pensiero fu di andare a vedere il fuoco. Lo scoprii, e una lieve brezza lo tramutò rapidamente in fiamma. Notai anche questo, e mi ingegnai a fare un ventaglio di foglie che mi servì a ridare vita alle ceneri quando stavano per spegnersi. Quando tornò la notte, mi accorsi con gioia che il fuoco dava non solo calore, ma anche luce, e che la scoperta di questo elemento poteva tornarmi utile anche nei riguardi del cibo, perché notai come alcuni avanzi che i viaggiatori avevano lasciato arrostire riuscissero molto più saporiti delle bacche che raccoglievo dagli alberi. Cercai quindi di trattare il mio alimento allo stesso modo, appoggiandolo sulla cenere ardente. Trovai che in questa maniera le bacche si rovinavano, mentre noci e radici guadagnavano moltissimo. Ma il cibo si era fatto scarso, e spesso passavo tutta la giornata nella vana ricerca di poche ghiande con cui placare la fame. Quando mi accorsi di ciò, decisi di abbandonare il luogo dove avevo fino allora abitato per cercarne un altro dove potessi più facilmente soddisfare quei pochi bisogni che provavo. In questa migrazione rimpiansi amaramente la perdita del fuoco che avevo ottenuto per caso e che non sapevo come riprodurre. Dedicai molte ore all'esame di tale difficoltà, ma fui costretto ad abbandonare ogni tentativo di procurarmelo, e dopo essermi avvolto nel mantello, attraversai il bosco, dirigendomi verso il punto in cui tramontava il sole. Dopo 3 giorni di vagabondaggi, raggiunsi alla fine l'aperta campagna. La notte precedente c'era stata una grande nevicata, e i campi erano di un bianco uniforme. Lo spettacolo era desolante, e mi ritrovai con i piedi gelati dalla sostanza fredda e umida che copriva il suolo. Erano quasi le 7 del mattino, e io desideravo ardentemente cibo e riparo. E scorsi alla fine su un rialzo del terreno una piccola capanna che era stata senza dubbio fabbricata per dare asilo a qualche pastore. Era uno spettacolo nuovo per me, ed esaminai la costruzione con grande curiosità. Trovai la porta aperta ed entrai. Accanto a un fuoco sedeva un vecchio che stava preparando la colazione. Si voltò al rumore e, come mi vide, emise un grido altissimo e, precipitandosi fuori dalla capanna, si lanciò attraverso i campi con una velocità che il suo esile aspetto non avrebbe lasciato supporre. Il suo aspetto, diverso da tutto ciò che mai avessi visto, e la sua fuga mi sorpresero alquanto, ma la capanna in tutto il suo assieme mi estasiò addirittura. Lì dentro neve e pioggia non potevano penetrare, il suolo era asciutto e mi parve quindi un rifugio divino, quale dovette apparire il pandemonium ai demoni dopo le sofferenze del lago di fuoco. Divorai avidamente i resti della colazione del pastore, che consisteva in pane, formaggio, latte e vino, ma quest'ultimo non mi piacque. Vinto dalla fatica, mi sdraiai su un poco di paglia e mi addormentai. Era mezzogiorno quando mi svegliai, allettato dal tepore del sole che scintillava sul suolo candido. Decisi di riprendere il mio viaggio e, dopo aver messo i resti della colazione del contadino in una bisaccia, camminai per ore attraverso i campi finché, al tramonto, giunsi a un villaggio. Che miracolo mi apparve! Capanne, linde casette, dimore imponenti suscitarono via via la mia ammirazione. Le verdure negli orti, il latte e il formaggio che vedevo sulla finestra di qualche casa mi stuzzicarono l'appetito. Entrai in una delle più belle fra queste case, ma avevo appena messo piede sulla soglia che i fanciulli presero a gridare e una delle donne svenne. Tutto il villaggio entrò in subbuglio, alcuni fuggirono, altri mi attaccarono finché, contuso dalle pietre e da altri proiettili, scappai verso l'aperta campagna e mi rifugiai pieno di paura in un basso capanno che, quasi nudo, faceva ben misero contrasto con i palazzi che avevo visto nel villaggio. Questo capanno era però addossato a una casetta dall'aspetto pulito e accogliente, ma dopo la mia recente esperienza, pagata a così caro prezzo, non osai entrarvi. Il mio rifugio, costruito in legno, era così basso che a stento potevo starvi seduto. Nonostante il pavimento non fosse di legno, era asciutto, e per quanto il vento vi penetrasse da innumerevoli fessure, trovai che quel luogo rappresentava un rifugio adeguato contro la pioggia e la neve. Lì, dunque, mi ritirai e mi coricai, felice di aver trovato un rifugio, per quanto misero, contro i rigori della stagione e ancor più contro la barbarie degli uomini. Appena fu giorno, scivolai fuori del mio covo per dare un'occhiata alla vicina casetta e scoprire se potevo restare nell'abitazione che avevo trovato. Era situata sul retro della casa e circondata sugli altri lati da un recinto per maiali, da una pozza d'acqua limpida. Un lato era libero ed era quello da cui ero entrato. Subito caricai con pietre e legni ogni apertura dalla quale potessi essere visto, ma in modo tale che avrei potuto togliergli quando avessi voluto uscire. Tutta la luce che avevo giungeva dal recinto e per me era sufficiente. Dopo aver così sistemato la mia abitazione e dopo aver ricoperto il pavimento di paglia pulita, mi ritirai perché avevo visto in lontananza la figura di un uomo e ricordavo troppo bene il trattamento della sera precedente per fidarmi di lui. Prima, tuttavia, avevo pensato al mio sostentamento per quel giorno con una forma di pane raffermo che avevo rubato e con una tazza con la quale, più facilmente che non con le mani, avrei potuto bere l'acqua pura che scorreva accanto al mio rifugio. Il pavimento, in lieve rialzo, era ben asciutto e anche abbastanza tiepido, data la sua vicinanza al camino della casa. Così sistemato, decisi di restare in quel capanno fino a che non fosse accaduto qualcosa a farmi cambiare idea. Era in effetti un vero paradiso, se lo si paragonava alla tetra foresta che aveva rappresentato la mia precedente dimora, con i rami stillanti, pioggia e la terra umida. Mangiai con piacere la mia colazione e stavo per rimuovere una tavola per prendere un poco d'acqua quando udii un rumore di passi e, spiando attraverso una fessura, vidi passare accanto al mio capanno una giovane che recava un secchio sulla testa. La ragazza era molto giovane e aveva un aspetto gentile, assai diverso da quello che ho in seguito notato fra le contadine e le servette di campagna. Eppure vestiva molto modestamente, perché tutto il suo abbigliamento consisteva in una rozza sottana azzurra e in una giacca di lino. I suoi capelli chiari erano raccolti in una treccia, ma non avevano ornamenti. Aveva un'aria paziente, ma triste. La persi di vista un quarto d'ora dopo circa. Ritornò, reggendo il secchio che era ora quasi pieno di latte. Mentre camminava, visibilmente affaticata da quel carico, le si fece incontro un giovane che recava dipinta sul viso un'espressione ancor più scoraggiata. Dopo aver pronunciato qualche parola con aria melanconica, il giovane le prese dalla testa il secchio e lo portò nella villetta. Ella lo seguì e scomparvero. Poco dopo il giovane ricomparve con qualche attrezzo in mano e attraversò il campo che si apriva dietro la casa. Anche la ragazza era affaccendata, ora in casa, ora nel cortile. Esaminando il mio rifugio mi accorsi che una delle finestre della casa aveva una volta dato su di esso, ma che ora i vetri erano stati sostituiti da pannelli di legno. In uno di questi pannelli c'era una fessura minuscola, quasi impercettibile, tale da permettere soltanto una sbirciatina. Attraverso questa fessura si vedeva una piccola stanza imbiancata a calce e pulita, ma quasi priva di mobili. In un angolo, accanto a un piccolo focolare, sedeva un vecchio, il capo fra le mani, in atteggiamento sconsolato. La ragazza stava riordinando la casa, ma poco dopo tolse da un cassetto qualcosa che le tenne occupate le mani e andò a sedersi accanto al vecchio, il quale, preso uno strumento, cominciò a suonare e a trarre note più dolci della voce del tordo o dell'usignolo. Era uno spettacolo delizioso, anche per me, povero sciagurato che mai prima avevo visto niente di bello. I capelli d'argento e l'aspetto benevolo del vecchio padrone di casa mi ispirarono rispetto, e le maniere gentili della ragazza mi conquistarono. L'uomo suonava un'aria dolce e triste che faceva spuntare le lacrime agli occhi della sua amabile compagna, ma di ciò il vecchio non si accorse fino a quando ella non singhiozzò in modo percettibile. Ella allora pronunciò qualche parola e la gentile creatura, lasciando il lavoro, si inginocchiò ai suoi piedi. Ma l'altro la fece alzare e le sorrise con tanta tenerezza che mi sentii invadere da una sensazione strana e sconvolgente. Era un misto di dolore e di piacere quale mai prima avevo provato, né per fame o freddo, né per calore o cibo, e incapace di reggere a una simile emozione. Mi allontanai dalla finestra. Poco dopo tornò il giovane, recando sulle spalle un carico di legna. La fanciulla gli andò incontro, lo aiutò a liberarsi dal peso, portò nella stanza un poco di combustibile e lo mise sul fuoco. Poi si ritirò assieme alla giovane in un angolo e le mostrò una grossa pagnotta e una fetta di formaggio. Ella apparve lieta, andò in giardino, a raccogliere delle erbe e delle radici, le mise nell'acqua, poi le portò sul fuoco. Riprese quindi il suo lavoro mentre il giovane usciva nel giardino e incominciava a scavare e a raccogliere radici. Si dedicò a questa occupazione per un'ora circa, poi la giovane lo raggiunse e rientrarono assieme in casa. Nel frattempo il vecchio si era abbandonato ai propri pensieri, ma come i suoi compagni rientrarono, prese un'aria più lieta e tutti sedettero a mangiare. Il pranzo fu rapido, la giovane donna tornò allora a riordinare la stanza, il vecchio passeggiò per qualche minuto al sole, davanti alla casa, appoggiandosi al braccio del giovane. Nulla avrebbe potuto essere più bello del contrasto tra quelle due eccellenti creature. L'uno era vecchio, con i capelli argentei, e il suo volto era soffuso di benevolenza e affetto. Il più giovane aveva una corporatura snella e aggraziata, e i suoi lineamenti erano modellati con squisita armonia. Eppure i suoi occhi e il suo atteggiamento esprimevano la tristezza e lo scoraggiamento più profondi. Il vecchio rientrò in casa e il giovane, con attrezzi differenti da quelli che aveva usato al mattino, si diresse verso i campi. Sopraggiunse presto la notte, ma con mio grande stupore vidi che i miei vicini avevano un mezzo di prolungare la luce mediante l'uso di candele, e fu una gioia per me constatare che il tramonto del sole non metteva fine al piacere che io ritraevo dall'osservare esseri umani. Nel corso della sera, la giovane e il suo compagno si dedicarono ad occupazioni che mi riuscirono incomprensibili, e il vecchio prese ancora lo strumento in cui i suoni divini mi avevano incantato al mattino. Appena ebbe finito, il giovane cominciò non a suonare, ma a emettere suoni monotoni che non ricordavano né l'armonia dello strumento del vecchio né il canto degli uccelli. Scoprì in seguito che leggeva ad alta voce, ma allora nulla sapevo della scienza delle parole o delle lettere. Dopo essere rimasta così occupata per qualche tempo, la famiglia spense le luci e si ritirò, come immaginai, per riposare.